9 in punto, la versione di Oscar. Che il mercoledì 15 dicembre, tema obbligato, all'indomani del voto per tre sole unità che alla Camera ha fatto la differenza. Quanto governo ancora e con quanta efficacia nelle commissioni, in aula? Cosa aspettarsi ora? L'allargamento? Pare di no. Il restringimento del margine politico di attuazione del programma? Ma vediamo, è ragionevole attenderselo. E allora elezioni? Quando? Come? Perché? Comunque, un'opposizione sconfitta, un Fini che esce, diciamo, col becco un po' storto, tutti quelli che dicevano che era già finita, che si trovano a dirlo al futuro e non al presente e al passato, e molti di coloro che pensavano, anche senza dirlo, che davvero stava finendo, che per l'ennesima volta dicono: ma quando finisce questo? Mai. E chi è? Ercolino sempre in piedi? Sì, è un po' il paradosso italiano. E anche la cifra della totale anomalia di questo personaggio singolare, strano, impolitico, con mille eccessi, mille difetti e mille imprevedibilità, proprio perché è impolitico. Si chiama Silvio Berlusconi e ieri ha regolato la partita ancora una volta a modo suo. Viene dalle profondità del tempo, attraversa i secoli vivendo vite segrete, lottando per arrivare al grande incontro, il giorno dell'adunanza, quando resterà soltanto l'ultimo immortale. Beh, non lo so se nella politica italiana veramente qualcuno si pensa immortale, forse troppi a dire la verità, vista il vigore con cui, trasformandola in un'arena del Colosseo dei vecchi tempi, tanto se ne danno che alla fine non riescono più ad evitare di ammaccarsi tanto profondamente da non rispondere alla domanda. Altro che immortali, se uno resterà in piedi, lì non ne resta nessuno, questo è il punto. Il governo in realtà ha portato a casa una vittoria su cui non scommettevano neanche gli scommettori professionali di Berlusconi ieri, questo è un fatto. Fini, che a differenza di Casini non si sfila di fronte agli elettori facendosi contare, ma picchiaduro, dice del Berlusconi le cose dure che pensano tutti gli oppositori, che anzi rimproveravano una parte dell'opposizione di non parlare più questo linguaggio, e di fatto sì, sfida, lancia la sfida, ma perde e resta con molto sangue sull'arena. E del PD non voglio dire niente per non incarognire, è un'opposizione che con doppio abbraccio da una parte dei neoppositori durissimi ex PDL, dall'altra dei toni durissimi, ne abbiamo sentiti anche ieri di Di Pietro, e poi in più con l'opa esterna Vendola, ha qualche, diciamo, delicato problema. E la sintesi di tutto questo è che quello che viene presentato come lo spietato dittatore, il tiranno, l'anomalia che sta in politica per difendere le sue aziende e per difendersi solo dai processi, in realtà lo spietato tiranno dice: ragazzi, andiamo a votare, andiamo avanti, ma io sono per andare a votare, e il suo alleato, la Lega, dice la stessa cosa, mentre in realtà tutti i sinceri democratici che vorrebbero liberare l'Italia dalla tabe esiziale di questo tiranno, monarca, autarca, eccetera eccetera, e quelli alle urne non ci vogliono andare, e che è un po' singolare, capirete, se come problema se il tiranno fa l'appello alle urne e al giudizio popolare, mentre tutti i sinceri democratici che vogliono liberare l'Italia dal fascismo e dal fascista, come dice sempre Di Pietro, in realtà le urne non ci vogliono andare. Allora, a me sembra la somma di un bel po' di paradossi. Non so se alla politica italiana si può adattare lo schema solo uno ne resterà, come nel mitico film di cui avete sentito l'attacco che abbiamo scelto in questa trasmissione. Il problema è che alla fine quello che rischia di rimanere secco o comunque di fare effusioni di sangue quotidiane è il paese. Questo è il punto di fondo, perché nell'imbarbarimento della politica italiana, che comunque in questi mesi ha dato una nuova prova di sé scendendo altre rampe di scalini, perché la violenza dello scontro animato da Fini, dai finiani, dai suoi, è stato un ulteriore passo verso l'imbarbarimento del confronto politico. Da questo punto di vista, a me, lo dico come osservatore, tocca sempre osservare che c'è una differenza di fondo tra la cifra stilistica di Ferdinando Casini, che ha rotto con Berlusconi con il PDL, altro che, si è presentato agli elettori su questa posizione, si è fatto contare, quindi ha scelto una posizione coraggiosa dal suo punto di vista, però senza mai arrivare a quello che invece la politica italiana ci propone ogni giorno quando si tratta di rotture di questo tipo, perché poi alla fine lo stile, la misura, il linguaggio in politica è qualcosa che vale quanto il contenuto. Quando ci si scaglia addosso degli epiteti come quelli usati in questi mesi e non è quasi praticamente più ipotizzabile nessun tipo di soluzione sui temi concreti. Non voglio dire di rappattumamento politico, perché quando si hanno quei giudizi è meglio non rappattumare, per carità, in nome della trasparenza, ma la questione è che sui problemi del paese, sulle misure concrete, la scuola, l'università, le 200.000 imprese che escono dalla moratoria bancaria da 3 settimane, su tutto questo in Parlamento bisognerebbe poi assumere rapide, efficaci decisioni, e quando a quel punto sono questi i toni che prevalgono è virtualmente ed è praticamente impossibile. Per questo io l'appello che faccio è a politici che sappiano preservare la misura, l'equilibrio. Casini, secondo me, lo ha fatto nella trasparenza di posizioni, rompendo col PDL, lo ha fatto dando un contributo alla cifra politica di civiltà del paese. Altrimenti vedremo che cosa ci diranno i nostri ospiti di oggi. Un'altra nota e ho terminato. Di sicuro ieri qualche cosa non ha funzionato nell'ordine di piazza a Roma. Non sta a noi lanciare accuse, noi ci limitiamo a registrare dei fatti. Un conto è avere grande equilibrio quando chiamiamoli studenti, perché erano anche lì organizzatori professionisti delle rivolte e delle proteste studentesche, forzano il Senato e le forze dell'ordine misurano professionalmente che in quel caso 3 settimane fa non c'erano corpi contundenti, non c'era niente che facesse pensare che si mettessero a svellere gli arredi d'aula, per così dire, e quindi la reazione è stata misurata. Altro conto è in un giorno topico, nel pieno centro di Roma, con un grande dispiegamento di forze dell'ordine e di fronte a organizzatori professionisti, a centinaia non della protesta, ma della distruzione e della violenza di massa, assistere a quello che fanno. Ecco. E ieri un po' questa è stata la sensazione. Non è una sensazione piacevole, capisco che le linee guida date alle forze dell'ordine siano quelle di non esacerbare, però forse ieri si è esagerato a non esacerbare, perché il segno che si dà è quello che possono a questo punto alzare ulteriormente l'asticella e Dio sa dove andiamo. Non c'è bisogno di questo e soprattutto bisogna sapere, lo si capiva guardando le immagini ieri sera, che non è il paese vero che protesta lì, sono centinaia, alcune centinaia, non poche, alcune centinaia, diverse centinaia, anche alcune migliaia se volete, ma di professionisti della devastazione, e i professionisti della devastazione vanno colpiti, questa è la mia linea, altrimenti alla barbarie della politica sommiamo anche poi perdere la misura. Cerchiamo di capire con i nostri interlocutori politici invece come loro hanno vissuto e come loro immaginano a questo punto il proseguo della legislatura, e abbiamo innanzitutto con noi Maurizio Gasparri, capogruppo PDL al Senato, buongiorno, lo saluto. Buongiorno, purtroppo non ho molto tempo perché abbiamo alle 9.30 la conferenza dei capigruppo per decidere cose importanti. Perfetto, no? E allora sentiamo immediatamente la sua impressione, innanzitutto l'impressione di come è stata l'atmosfera d'aula ieri a conclusione, e poi immaginiamo di capire se davvero c'è uno sviluppo, perché realisticamente nessuno può pensare davvero che c'è uno sviluppo di ampliamento della maggioranza oggi, anche se sono state le parole del Presidente del Consiglio subito dopo la vittoria. Ma intanto al Senato il clima certamente è stato migliore rispetto alla Camera, perché c'è un confronto deciso, chiaro, franco, una situazione meno tesa della Camera, dove il ruolo di Fini, il gruppo di Futuro e Libertà con una posizione più antagonista, vogliamo dire, ha reso più caloroso il clima in quell'aula. Tra l'altro devo dire politicamente che è emersa anche da questo punto di vista una diversità nel gruppo di Fini, mentre Viespoli, capogruppo al Senato, ha fatto un discorso tutto sommato, insomma, con una prospettiva di coesione del centrodestra, e Italo Bocchino ha fatto un discorso veramente di una durezza tale che ha spinto alcuni parlamentari, Moffa, Siriquini, Polidori, a non seguire questa posizione di rottura. Mi rendo conto che con i 3 voti di maggioranza alla Camera non è che si possa immaginare una strategia che consenta l'immobilismo, tuttavia voglio dire a quelli che dicono la Conte è un errore, la Conte è nata perché è stata presentata una mozione di sfiducia, che l'abbia fatto l'opposizione è fisiologico, ma che l'abbia fatto Futuro e Libertà è patologico, per cui Berlusconi ha cercato il confronto parlamentare, se avesse perso anche di mezzo voto oggi saremmo a discutere della fine del berlusconismo, di un'era che viene archiviata, invece Berlusconi ce l'ha fatta, chi ha presentato la mozione di sfiducia non poteva considerare la conta, il voto, un fatto anomalo, perché la mozione si presenta per l'appunto per votare, oggi Berlusconi c'è, il centrodestra alternativo non c'è, la sinistra non sembra avere una strategia, come possiamo dire, che offra un'alternativa credibile, noi dobbiamo cercare, se vogliamo evitare il voto, di allargare l'area di maggioranza con i singoli e forse anche con un confronto politico. Ieri Berlusconi ha fatto un po' cenno a questa cosa, però probabilmente bisogna che maturino un po' le situazioni. Noi saremo dei giorni ancora importanti al Senato, un decreto sulla sicurezza, abbiamo, che è importante vista anche la situazione gravissima di ieri, che io invito a non sottovalutare, le troppe ambiguità, i troppi tetti attraversati da Tizio o da Caio favoriscono la degenerazione del clima, e ieri c'era troppa compiacenza dei cortei nei confronti dei criminali, poi si dice 100 criminali, non è vero, c'era la compiacenza, il consenso, la condivisione di migliaia di persone, e quindi quello che accade ieri è molto grave. Allora la responsabilità della politica è quella di confrontarsi, se sarà possibile avere una maggioranza stabile e più ampia come noi ci auguriamo, bene, si governa, altrimenti non c'è dubbio che poi la prospettiva elettorale è sicuramente migliore in una democrazia di una confusione, di un caos che anche le piazze rendono molto drammatico. Nella sua conoscenza personale di esponenti che hanno seguito l'onorevole Fini in questi mesi in Futura Libertà, quello che è avvenuto di fronte ai toni duro, il transist, l'intervento di Bocchino, e cioè che alcuni deputati non se la siano sentita e abbiano poi consentito la vittoria del governo, secondo lei è un fenomeno destinato ad estendersi e in qualche misura a corroborare ulteriormente il margine della maggioranza, oppure no? Io la metto su un piano politico più che sull'inseguimento dei singoli. Si può rimettere in campo una sinistra che non ha un progetto, che non ha numeri? Si può dividere in maniera drammatica un'area moderata che è prevalente nel consenso del Paese? Tutte le elezioni che si sono svolte in questi anni non hanno confermato che può avere numeri in Parlamento. Quindi io mi auguro che il buon senso prevalga. Noi abbiamo avuto ieri tre posizioni di Futura Libertà, dimostrazione anche di come quella costruzione sia un po' artificiosa. Quelli estremisti, devastatori, gli atteggiamenti alla Bocchino e ad altri. Abbiamo avuto quelli più ragionevoli, la posizione di Viespoli al Senato e di altri che pur rimanendo in quel gruppo non hanno avuto quell'atteggiamento di rottura iconoclasta, e alcuni, la terza scelta, che hanno detto vabbè, io ero entrato in questo gruppo, lo ha detto chiaramente la Sirigini, per aprire un dibattito nel centrodestra, non per sfasciare il governo, ci avevano detto saremo comunque nel centrodestra, saremo comunque con Berlusconi anche su posizioni critiche, e quindi hanno fatto la Sirigini, la Polidori e anche Moffa, che non ha votato, una scelta di ancora maggiore coerenza. Io la metterei su un piano politico, mi auguro di poter rispondere positivamente alla sua domanda, ma non perché si tiri la giacca a Tizio o a Caio, perché, come dire, si apre il cervello a Tizio o a Caio e si capisca che meglio discutere nella unità di un'area moderata che andare a creare questa confusione che uno non può spiegare al vicino di casa. Io vorrei che i parlamentari di Futura Libertà parlassero con i vicini di casa e non con gli elettori di sinistra. Veda, le racconto un episodio sul Corriere della Sera, il giorno dopo il convegno di Bastia Umbra, in cui Fini chiese all'inizio di novembre le dimissioni di Berlusconi, lessi sul Corriere della Sera che il vecchio Spallone, medico di Togliatti, 93 anni, dichiarò al Corriere della Sera: io che sono staliniano, lo è tuttora, si definiva tale lui, sono venuto a Bastia Umbra ad applaudire Fini perché Fini caccia Berlusconi. Gli eletti di Futura Libertà, eletti con noi nel PDL, sono in Parlamento per accontentare qualche begliardo staliniano che vuol cacciare Berlusconi o per rispettare il mandato degli elettori? Io non ho mai accontentato staliniani o stalinisti della mia vita politica, e allora io penso che si debba riflettere su questi episodi per capire la strada da seguire. Senta, un'ultima domanda. Il rapporto con la Lega, e devo dire, è stato in questa fase, lo hanno visto tutti, privo di incrinature, assoluto, cioè una regia e un coordinamento senza sbavature, quindi una piena fiducia. Nella giudizio che Bossi ieri lo ha dato prima del voto, a dire la verità, come poi lo ha ribadito dopo, dicendo con un voto o due non si governa. E a questo punto una linea totalmente condivisa, bisogna immaginare, non polemica nei confronti di Berlusconi. Berlusconi e del PDL. Ma a quel punto come si fa a immaginare, se per caso dovesse rivelarsi problematica, la possibilità poi di governare commissioni e aula in Parlamento, e quindi di qui a qualche mese fosse lo stesso Berlusconi e lo stesso Bossi a dire: beh, andiamo a votare, a questo punto fateci ridare la maggioranza dagli italiani. Però come si fa, quando in realtà si è vinto la prova di forza, a poter immaginare poi uno scenario simile? Ci si auto-organizza una crisi? Come funziona? Ma noi dobbiamo in primo luogo provare ad andare avanti nell'azione di governo. Ieri anche Bossi, ad esempio, ha aperto a un confronto con l'UDC. Quindi vedremo se ci sono possibilità. Primo, tentare di portare avanti la legislatura. Se ciò dovesse essere impossibile, e ripeto, tra la confusione totale alimentata anche da violenze di piazza e le elezioni, io credo che le elezioni siano sempre una risposta democratica. Ma in primo luogo va tentata la convergenza di forze e di personalità del mondo moderato e di centrodestra. Ieri anche Bossi, in alcune sue dichiarazioni, lo ha detto, ed era una cosa che si riteneva estranea all'agenda di Bossi, invece l'ha messa nella sua agenda. Va bene, allora io ringrazio Maurizio Gasparri, buona giornata, buon lavoro. E abbiamo con noi Enrico Letta, vice segretario del PD. E dal punto di vista del PD, la giornata di ieri è stata una giornata che non so come si possa giudicare, perché da una parte gli sviluppi che sono avvenuti nei mesi precedenti, che hanno portato al voto di ieri, non sono stati messi in moto dal PD, che ha una posizione di netta opposizione da sempre nei confronti di Berlusconi, e quindi insomma, vedere alla prova la componente finiana che si è un po' sfaldata per strada ed ha poi comportato il risultato finale a sorpresa, perché la componente finale non ha retto, e per così dire l'ennesima verifica dei nuovi interlocutori che si aggiungono al treno dell'opposizione e che poi spesso forse non sono in grado di mantenere tutte le promesse che hanno suscitato. Però al di là di questo, il giudizio di ieri, il giudizio sulla fase di Berlusconi, da dove ricominciare, con quali compagni di strada, Letta, per la prospettiva di chiudere e voltare pagina rispetto a questi 16 anni? Ma è indubbio che la giornata di ieri politicamente Berlusconi ha segnato un punto, questo sarebbe assolutamente ipocrita e non serio non sottolinearlo. La giornata di ieri è stata una giornata in cui alla fine hanno prevalso e prevarranno probabilmente anche nel giudizio dei prossimi mesi, dei prossimi anni, immagini molto brutte, che sono immagini che dobbiamo tutti, sulle quali dobbiamo tutti reagire. Sia in termini di solidarietà e vicinanza ai poliziotti che hanno fatto il loro lavoro, con alcune falle che ci sono state nella gestione che vanno sicuramente verificate, ma insomma è inaccettabile la violenza che c'è stata ieri e va esecrata con tutte le forme e con tutti i modi, così come anche il modo col quale dentro il Parlamento si è vissuta la giornata di ieri è stato una modalità sulla quale bisogna fare una riflessione. Insomma, non è possibile che dentro il Parlamento il clima sia il clima da rissa continua. Per carità, momenti di rissa ci sono sempre stati nella nostra storia, ma insomma ieri erano scontri tra gruppi di modello Curva Sud. Ah, sì. La scena del perché anche poi prima non ho interrotto, però anche al, diciamo, più accostumato Senato, anche lì sono volati due pugni a senatore Bianco, quindi due pugni. E l'altra cosa, non è intollerabile che il Parlamento sia trasformato veramente in una curva con tanto di bandiere, gente in piedi sugli scranni che canta, festeggia. Qui penso che ci sia bisogno di un punto fermo. Le istituzioni, il rispetto per le istituzioni parte dal comportamento. Ieri abbiamo visto delle cose indecorose, indecenti, e lo voglio sottolineare con tutta la forza di questo mondo, pur sapendo che chi ieri festeggiava in quel modo, come se avesse segnato un gol il Milan o la Roma, aveva vissuto una giornata di grande tensione, ma insomma non si fa così. Detto tutto questo, la politica, e qui partiamo da un punto: in tutte le democrazie occidentali chi vince le elezioni, e le vince bene, come ha vinto Berlusconi nel 2008, ha 5 anni di tempo per governare. L'opposizione fa in Parlamento sui provvedimenti l'opposizione, e nel Paese cerca di riorganizzarsi e di costruire un'alternativa. Se si cerca o si vuole bloccare interrompere questi 5 anni in Parlamento, l'unico modo perché questo accada è che una parte della maggioranza si stacchi e insieme alle opposizioni mandi a casa il governo che è stato eletto all'inizio della legislatura. E questo lo dico perché a tutti coloro che in questo momento criticano da sinistra o da non si sa bene dove la strategia del centro-sinistra, dico semplicemente che non ci sono alternative al fatto di cercare in Parlamento di far sì che il governo interrompa la sua corsa, che a nostro avviso è una corsa non utile al Paese, raccordandosi con i pezzi della maggioranza che per altri motivi vogliono, e venendo da altri percorsi, vogliono fare lo stesso, se no semplicemente il governo va avanti 5 anni. E questo è il primo punto, quindi non ci sono alternative all'unità delle opposizioni presenti in Parlamento per cercare di arrivare alla fatidica dimissione del Presidente del Consiglio. Il voto di ieri in questo ha rappresentato sicuramente un'occasione mancata perché c'eravamo vicini, ma ha rappresentato un passo avanti perché la maggioranza si è ristretta in condizioni tali che è impossibile governare, quindi Berlusconi oggi è costretto a fare una scelta, la scelta appunto è o allargare, cambiare, quindi arrivare a un Berlusconi bis allargato, oppure dimettersi, che è quello che noi chiediamo, e l'opposizione si è allargata in modo serio, perché il fatto di ieri è che con l'uscita diciamo di coloro che le cosiddette colombe di Future Libertà, Fini passa all'opposizione in armi e bagagli in tutti i modi, ci sono vari fatti che questo lo dimostrano e quindi si affronteranno le questioni. Questioni che sono serie, lo voglio ricordare, lo ricordo in particolare a lei Giannino perché è uno che su queste cose è più sensibile nelle sue trasmissioni. Domani si apre un Consiglio europeo drammatico, perché è drammatico per tutti noi, solo per noi italiani, ma anche e soprattutto per noi italiani, perché non dimentichiamoci mai che noi possiamo permetterci tutto il non governo, le discussioni bislacche attorno a problemi che non hanno niente a che vedere con gli italiani, perché ci abbiamo un tetto sulla testa sicuro, un tetto sulla testa costruito in mattoni tedeschi. Ora, questo tetto che abbiamo sulla testa costruito in mattoni tedeschi, cioè l'euro, e cioè l'Europa, è un tetto che gli stessi proprietari dei mattoni hanno cominciato a dire: ma perché noi dobbiamo comprarli solo troppo a spese nostre, i mattoni che coprono la testa altrui? E senza quel tetto scopriremmo rapidamente che tutte queste passioni tribali della politica, senza guardare ai problemi dell'economia, della finanza e al contesto mondiale, a come poco cresciamo, perché poco abbiamo fatto per crescere. Io in questo do completamente ragione all'onorevole Letta. Scopriremmo molto rapidamente che evidentemente i nostri toni e le passioni di questa politica che guarda l'ombelico sono effettivamente sbagliate. Sono sbagliate non perché non abbiano legittimamente punti di vista reciproci, procedere utile l'uno sull'altro, ma perché la proporzione dei problemi reali è altra e sono altri quei problemi a cui non si dà risposta. Quando ho visto già da ieri la storia di questo cane Atos, il cane che Gianni Amaranto, era questa nave della linea Messina, io conosco i fratelli Messina, gli armatori, questa nave è stata in difficoltà per 3 giorni al largo delle coste egiziane, poi è arrivato un rimorchiatore da Creta, l'ha finalmente riagganciata, l'ha portata al porto egiziano, purtroppo non ha evitato una secca esattamente fuori la diga foranea dopo 3 giorni, e quindi poi l'equipaggio è sbarcato con la nave incagliata e semiaffondata, e a quel punto questo meraviglioso massinoide che c'era era cresciuto a bordo solo della nave Atos, che di fronte al fatto che si salvava ma doveva abbandonare la nave, dal rimorchiatore in cui veniva salvato si rigetta verso la nave, perché la nave era la sua casa e lui è fedele alla sua casa come al suo padrone, si è rigettato nelle acque ed è morto. Non ho potuto pensare, nella mia stupidaggine di chi ama gli animali forse spesso più del genere umano, non ho potuto fare a meno di pensare che nel sacrificio di questo cane fantastico, meraviglioso, c'è un legame, un valore che dovrebbe fare riflettere spesso noi umani, così poco abituati a essere coerenti alle scelte di fondo a volte, da immedesimare la disinvoltura con cui cambiamo idea, opinione, abito, foggia, compagna nella vita, da immedesimarlo con la libertà. Ecco, la libertà non è semplicemente la licenza, almeno per me, e questo cane mi ha fatto pensare alla durezza degli insulti, delle rotture di rapporti con cui la politica per l'ennesima volta ieri ci ha proposto, e invece a questa grande stoica, quasi filosofica attitudine di questo cane, che per non lasciare la nave e sua casa, il suo mondo di valori, si è addirittura immolato per lei. Mi rendo conto che vi potrà sembrare una stupidaggine, però è di valori che voglio parlarvi apposta nell'introdurre in questa seconda parte della trasmissione, oltre a Ravone Enrico Letta, che resta con noi per rispondere poi alla telefonata degli ascoltatori più avanti. Ci abbiamo qualche minuto a disposizione e in collegamento, e la ringrazio, Katia Polidori, ex deputato di Futuro e Libertà, il cui pronunciamento di voto ieri ha fatto assolutamente arrabbiare a vette terribili i colleghi di Futuro e Libertà. Tanto alcuni di loro hanno pronunciato dei giudizi terribili sull'onorevole Katia Polidori, ed è stato insomma decisivo, determinante poi nell'esito del voto. Io conosco l'onorevole Katia Polidori da prima della politica, da quando era giovane imprenditrice in Confapi, e siccome la conosco desidero dire che a maggior ragione vedere i giudizi di questo tipo, la durezza che adesso gli complicano la vita perché poi gli arrivano insulti, cose eccetera, e confondere questo aspetto tribale con una politica in cui conta la coscienza, e come conta la coscienza di chi lascia la maggioranza, conta la coscienza di chi l'ha lasciata pensando che non si arrivasse a una rottura. Quando capisce che c'è una rottura, la coscienza gli dice faccio altrimenti. Allora la mia opinione è che bisogna che noi impariamo a rispettare tutti, perché altrimenti, se dimentichiamo questo, vi dico, preferisco il cane Athos. Il cane Athos ha delle non esitazioni nella scelta dei valori di fondo che me lo fanno sembrare più rispettabile di chi riduce la politica a insulto. Ho voluto apposta premettere questo, dichiarando a tutti che conosco e stimo personalmente l'onorevole Polidori, non per quello che ha fatto ieri, ma perché ne conosco l'anima di appassionata ai problemi economici, un'imprenditrice, famiglia di imprenditori di questo paese, e la mia opinione è che qualunque deputato e senatore della Repubblica scelgano di votare pro contro Berlusconi, pro contro l'opposizione, pro contro il governo di domani, bisogna che tutti ci abituiamo ad avere almeno altrettanta saggezza di quanto il caneato sia. Ci ha ricordato a tutti che bisogna averne. Allora, onorevole Polidori, come ci si sente all'indomani della sua scelta, e soprattutto che cos'è davvero che le ha fatto assumere il voto che ha espresso ieri? Quali i valori di fondo rispetto a quali durezze che sentiva nell'aria pronunciare che non condivideva? Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Intanto la ringrazio, stamattina ho bisogno di questo conforto, dato tutto quello che è successo ieri. La ringrazio anche per questa stima personale che lei sa che è ricambiata, perché ci conosciamo da tempo. Cosa è successo? In realtà noi siamo partiti da una data, che è stata quella del 29 di luglio, preceduta da una direzione nazionale, il famoso indice puntato di Fini contro Berlusconi ad aprile, che ha portato un gruppo di deputati, un po' per lealtà e coerenza verso il leader che li aveva voluti in Parlamento, e un po' per, obiettivamente, per la sensibilità verso il tema della democrazia, cioè quindi la possibilità di dissentire all'interno di un sistema non poteva essere di certo limitata da quel documento che dichiarava Fini incompatibile con il PDL. Cosa è successo da quel momento? Che siamo partiti come una forza di opinione, di pungolo all'interno del PDL, per arrivare con un percorso fatto di strattoni forzati e di tattica politica, e secondo me la tattica politica ha superato l'essenza vera della politica e il bene del paese, da tutte e due le parti, obiettivamente, un muro contro muro che non ha prodotto nulla. Siamo arrivati ieri a dover votare la sfiducia ad un governo, indipendentemente dal giudizio sul governo, un fatto che dal mio punto di vista, da imprenditrice, da ex presidente nazionale dei giovani imprenditori, sa che l'Italia in questo momento non si può assolutamente permettere. E allora a quel punto il voto, l'incomprensione generale intorno a sé degli ex colleghi con cui si era condiviso questo tratto, però contemporaneamente la sensazione forse che il mondo dell'impresa non chiedeva una crisi. Questo devo dire lo stesso onorevole Calearo, storia completamente diversa dalla sua, scelte completamente diverse dalle sue, ha detto: nel mio atteggiamento, che è stato un atteggiamento di non partecipare al recepimento dello strumento di sfiducia, poi alla fine avevo i telefoni intasati di colleghi imprenditori che mi dicevano: bene hai fatto, sì, perché qui non ci vuole la crisi di governo e non ci vogliono soprattutto le elezioni. La stessa cosa è successa a me, nel senso che io ho mantenuto ovviamente il contatto, come lei ben sa, con il mio mondo, e sapevo, oltre al fatto che non ci volesse una crisi, che ci volesse anche un segnale molto forte, perché c'è anche un'altra storia oltre a quella economica, c'è anche quella politica. Sentirsi da un giorno all'altro, un conto è restare nel centrodestra, sentirsi da un giorno all'altro passati all'opposizione è un trauma per chi ha una storia come la mia di appartenenza, non solo al centrodestra, ma di appartenenza e di coerenza ai valori quasi pari al nobilissimo Cane Atos, e questo però ne parlo la mia storia, era stato troppo. Ieri mi hanno chiesto in molti, ma allora perché ha firmato la mozione di sfiducia? Beh, quella era veramente tattica politica, era sempre coerenza, lealtà al gruppo di appartenenza, perché doveva essere un elemento di trattativa. Elemento che poi si è dimostrato inutile, ma perché tutti i successivi tentativi fatti dalle cosiddette colombe, di cui diciamo il portavoce era il presidente Moffa, che stimo tantissimo, e devo dire io ieri ho vissuto con lui un momento di, non di crisi, proprio di dolore profondo nel fare quella scelta, tutti i tentativi fallivano ormai non più, ripeto, per l'essenza della politica o per valori o per impegno o per contenuto, ma fallivano ormai per una presa di posizione troppo forte e, dal mio punto di vista e da quello degli altri colleghi, ingiustificata. Faccio a lei la stessa domanda finale che ho fatto a Gasparri, che non ha voluto rispondere perché giustamente dice non compete a me, ma per la cognizione diretta all'interno di Futuro Libertà che ha avuto in questi mesi nella formazione del gruppo, nel dibattito interno e di fronte a questa forbice di diversa durezza di alcuni suoi esponenti, tanto diversa che poi alla fine l'impressione al giorno dopo è che l'intervento in aula alla Camera dell'onorevole Bocchini sia stato un autogol, perché ha prodotto insomma dei danni alla componente e ha prodotto rispetto all'impostazione di Fini, che era quella di mandare a casa Berlusconi a questo punto con una prova di forza, ne ha provocato la sconfitta. La sua impressione è che dentro Futuro e Libertà questo processo andrà ulteriormente avanti adesso? Guardi, io ho conosciuto una serie di persone che le dico peraltro che non le conoscevo bene prima, le sa che comunque in Parlamento siamo tanti e il PDL è molto grande, per cui spesso stai vicino a chi sta in commissione con te, a chi divide insomma più o meno gli stessi obiettivi, a chi ti sta seduto accanto. Io ho conosciuto una serie di persone validissime, in gambissima. Il gruppo dei moderati è di ben lunga molto più alto del gruppo di chi a tutti i costi vuole Berlusconi a casa, cioè il gruppo dei moderati è un gruppo che vuole fare politica e vuole che il centrodestra lavori in un certo modo, ma non era assolutamente anti-berlusconiana a tutti i costi. Questo gruppo avrà delle difficoltà. Al Senato probabilmente nessuno di noi si sarebbe staccato dal gruppo. Probabilmente al Senato, dove il capogruppo è Viespoli ed è una persona che non solo stimo tantissimo, ma la reputo persona di grande esperienza politica, e si è sentito ieri dall'intervento che ha fatto, ovviamente le cose sono ben diverse alla Camera. Ieri si è sentito un intervento che, diciamo, e poi sa, i giornalisti hanno scritto all'ultimo, alcuni colleghi hanno detto decisioni che potevano essere comunicate prima, sono state comunicate prima, perché la sera prima in una riunione dei gruppi tutti avevamo la possibilità di poter dire la nostra opinione, e io ed altri tantissimi avevamo addirittura proposto l'astensione, pur consapevoli che alla Camera l'astensione ha ovviamente un peso diverso rispetto a quella del Senato, esattamente il contrario, alla Camera l'astensione avrebbe quasi voluto dire un voto a favore, ma per dare la possibilità comunque al governo in un momento come questo di dare il massimo, di come dire, segnare dei punti, ma non a favore di Berlusconi o a favore di Fini, di segnare dei punti a favore dell'Italia, cioè di tenere in un momento che lei sa benissimo a rischio per la nostra sovranità, che lei sa benissimo a rischio per la trattativa, se così si può chiamare, sul nostro debito pubblico, che credo sia il 16, e a rischio per la ricollocazione dei nostri titoli di Stato. Va bene, io ringrazio l'onorevole Polidori e devo dirle si attrezzi, perché immagino che in questi giorni non mancheranno coloro che molto esacerbati e devo dire anche pesantemente insufflati. L'informazione in tutto questo ovviamente fa un bel patto con la politica che non trattiene i suoi toni e quindi ci si monta a vicenda, quindi io non mi meraviglierei se al di là del suo telefono e dei suoi fax qualcuno la insultasse per strada, la cosa, quindi si dovrà organizzare. Devo dire che molti sms che dicono stai trattando con i guanti una che si è fatta corrompere, ecco, io mi rifiuto di vederla così, avete capito? Mi rifiuto per, non per una specie di polveroso rispetto del Parlamento, che non ho perché l'ho frequentato troppo a lungo per non sapere di quanta concreta durezza sia fatto il confronto là dentro, ma perché non credo affatto che l'onorevole Polidori sia stato comprato dai soldi per il CEPU, come leggete su tutti i giornali. Capisco chi, deluso dall'errore fatto in FLI nell'aver non saputo saper prevedere le conseguenze di toni così duri, perché in questo onorevole Bocchino ha una responsabilità secondo me molto pesante, allora capisco che poi fomenti delle reazioni come quelle dell'onorevole Barbareschi, come quelle allora, però in questo poi si rilancia aizzando uno scontro personale che porta in aula, lo abbiamo visto al Senato, alla Camera, i parlamentari a prendersi a pugni, e fuori la gente aizzata con la bava alla bocca, siccome sono 16 anni che viviamo in alcuni atteggiamenti tribali, porta poi ad alzare le mani, alzare toni, a dare giudizi terrificanti sulla morale privata di persone che non si conoscono e che si dipingono come corrotti, corruttori, schiavi e servi. E il tono è il Di Pietrese. Io lo lascio a Di Pietro e penso che sia un elemento di corruzione della democrazia italiana, perché mina la possibilità di rispettarsi reciprocamente, e fuori da quello non c'è alcun confronto democratico che serva, perché non è quello. Di Pietro infatti può dire che chi vince le elezioni e non è d'accordo con la sua impostazione magari può essere anche all'opposizione con lui, ma magari è un tiranno autocratico corruttore, e se questo lo posso dire di Pietro, di me, io di lui, chiunque di chiunque altro, capite che allora il suffragio universale e rappresentanza non conta più niente, conta solo che ciascuno si considera autorappresentante di una presunta virtù, dalle quali tutti gli altri sono esclusi. Quindi, onorevole Polidori, grazie, si organizzi, perché questo le capiterà inevitabilmente, la sua vita sarà complicata. Onorevole Letta, ma che cosa insegna il PD e a quella parte del PD, più insomma nella quale per i suoi toni, per la sua storia milita lei, che prospettiva indica per tempi di una opposizione che riesca a prevalere in Parlamento, ma soprattutto poi in Italia, e per alleati, alleanze? Qual è la lezione di ieri dal suo punto di vista per il PD? Ma io penso questa, che Berlusconi è, insomma, rimane forte, attrattivo ed è battibile non da una alleanza di persone che si trovano insieme per batterlo, venendo da strade diverse e andando verso strade diverse. E questa seconda parte mi sembra essenziale. Berlusconi si batte se si crea una convergenza, un'alternativa tra progetti, idee, persone che però indicano qual è effettivamente l'alternativa che il giorno dopo Berlusconi battuto può prendere piede nel paese, perché altrimenti, se è tutto troppo indefinito sul dopo, la sua capacità di Berlusconi di attrarre, di convincere con qualunque mezzo, perché appunto ieri non credo che i mezzi di convincimento usati per riuscire a vincere la partita di ieri siano stati i mezzi di convincimento in cui grandi ideali abbiano fatto abbiano prevalso, ecco. E però la sua capacità di convincimento è più forte, più attrattiva, se non c'è dall'altra parte non soltanto il mettersi tutti per batterlo, ma il creare effettivamente l'alternativa del giorno dopo. Secondo me questo è il messaggio di ieri, nel senso che probabilmente si pensava che, come era un mese fa, due mesi fa, Berlusconi fosse alle corde per gli scandali personali, la situazione, lui che non riusciva più a governare nulla e via discorrendo, ha dimostrato invece sul tema, diciamo, dello scontro politico di esserci ancora. Quello che manca è il progetto per il paese, chiaramente non è emerso nel suo discorso. Ma infatti qui la questione oramai è una prova di leadership personale, reggere. La questione però è che con numeri diversi, io capisco che tutta l'enfasi che c'è stata per mesi in cui sembrava che si potesse nascere un governo istituzionale, insomma un cuscino di decantazione che consentisse almeno di toccare la legge elettorale prima del voto. Dai numeri di ieri mi sembra che questo sia privo di possibilità, perché come giustamente si osserva, con 3 voti di maggioranza il governo non è in condizione di governare, non controllerà le commissioni e l'aula, è ovvio che è così. Allo stesso modo però non mi pare che l'opposizione abbia i numeri per fare una maggioranza istituzionale col PDL che ormai ha vinto la prova muscolare e con la Lega che è indisponibile. Quindi nel caso in cui si vada a votare, quanto duri e comunque inane sia il resto di questa legislatura, onorevole Letta, però l'ipotesi di andare a votare con questa legge elettorale obbliga l'opposizione a fare che cosa? Il maxi listone tutti uniti contro Berlusconi di cui si è parlato secondo lei? Ma no, assolutamente no, ovviamente, dico ovviamente dal mio punto di vista, è proprio parte del ragionamento che ho fatto prima. Noi dobbiamo essere in grado nelle prossime settimane di fare un passo avanti. Il passo avanti vuol dire da una parte essere molto rigorosi ed esigenti nel dire Berlusconi ha oggi una maggioranza di 3 voti in Parlamento, governi e dimostri di voler governare, perché sennò l'impressione netta è che appunto quei 3 voti siano serviti a lui per rimanere lì a prescindere da che cosa ha intenzione di fare. Ma da parte nostra ovviamente la questione è la costruzione dell'alternativa. Credo che ieri sia avvenuto un passo avanti, è quello per il quale si è capito che Berlusconi si batte se questa alternativa viene messa in campo. Io non ho dubbi che il nostro ragionamento debba essere un ragionamento che continui il dialogo in Parlamento con coloro che hanno preso posizioni coraggiose, secondo me, alla fine, e hanno preso da un approccio riformista, da un approccio moderato, hanno preso la posizione coraggiosa di criticare Berlusconi e mettersi all'opposizione. Quindi io non ho dubbi che bisogna ragionare con loro e capire insieme a loro che margini di lavoro ci sono. Fermo restando che l'onere della prova oggi, il risultato di ieri, lo ha rovesciato su Berlusconi. Deve far vedere a questo punto di governare, non c'è dubbio. Dire che cosa vuol fare. Allora, io ringrazio ancora Enrico Letta, il mio appello, per quello che può valere nulla, ma la mia posizione da elettore è quella che bisogna avere coraggio nel non avere cattivi compagni di strada, perché le ammucchiate non credo che convincano e non hanno portato bene al PD. Un progetto riformatore più coraggioso, meno lontano dal mercato, dalle imprese, da quello che avviene sull'euro, meno lontano dalle provocazioni giuste di Marchionne, che dice: ma vogliamo capire che si fanno i contratti aziendali per difendere gli stabilimenti e non i grandi contratti nazionali? Io credo che la lezione di questa vicenda sia per l'ennesima volta questa: le grandi ammucchiate che dicono Berlusconi viene sepolto perché è un ladro ed è un seduttore, credo che in 16 anni non l'abbiano mai portato bene a nessuno. Non credo che questo governo sia nelle condizioni di poter farci vedere chissà più che cosa per 3 voti, anche perché era già esaurito prima, l'ho sempre detto 1000 volte, e le sue promesse, basse tasse, e bassa spesa e una giustizia efficiente, io non le ho viste tradotte in realtà. E per questo penso che da questi microfoni dovremmo continuare a dirvi che una politica che non è in grado di realizzare le sue promesse, non per i traditori interni, ma perché non è in grado, è una politica che a questo punto sa di e puzza di corruzione, perché è lo Stato che diventa corruttore, cioè la politica pro tempore. Grazie comunque a Maurizio Gasparri, a Katia Polidori e a Enrico Letta. Grazie a tutti coloro a cui anche oggi siamo andati in onda. Appuntamento a domani.